Although I think Sandra was doing a wonderful job, we have now Piero, who is an international cosmic translator. Cosmic. Anche se pensa che Sandra stia facendo un fantastico lavoro, adesso abbiamo Piero. È un traduttore internazionale cosmico. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Homage to the Buddha, the blessed, noble and fully self-enlightened one. Can you still see me? Potete ancora vederlo, sì. It's just so hot. Altro perché scalda molto. Is that light? No, they don't work. So this evening, I want to revise the teachings around the hindrances. And for some of you, it will be really just a revision, and for one or two of you it'll be something new. Questa sera volevo fare un po' una passare in rassegna nuovamente di quelli che possono essere gli ostacoli alla pratica. Per alcuni di voi sarà una sorta di ripasso, per invece un paio di persone sarà qualcosa di nuovo. I'd like to start with this very important word in the Buddha's teachings, which is the word tanha. Allora, tana è un termine molto importante negli insegnamenti del Buddha e vorrei iniziare con una spiegazione su questo termine. Desire is translated as tanha is translated as desire, and it's the cause of our suffering. Tana è tradotto con il termine desiderio ed è individuato come la causa della nostra sofferenza. When the Buddha began to organize his teachings, he organized it into these four noble truths. Quando il Buddha iniziò a organizzare i suoi insegnamenti, iniziò a dargli una forma suddividendola nelle quattro nobili verità. And it followed the usual pattern of the doctors of those times. E seguì una modalità che era comune e usuale a le persone udite, ai dottori di quel periodo storico e alle dottrine di quel periodo storico. There was the illness, there was the cause of the illness, there was the prognosis, whether the illness could get better or not, and there was the way to cure it. Quindi c'era la malattia, la causa della malattia, una sorta di prognosi e poi la cura che si stabiliva. So the Buddha simply said that the human life was dukkha. Il Buddha semplicemente affermò che la vita umana era dukkha. And dukkha translates literally as a hard place. Dukkha come traduzione letterale si può tradurre come un luogo difficile, duro. La vita è difficile e duro. But he says that the reason for this is because of this desire. Ma affermò anche che la motivazione per cui è così è da rintracciarsi nel desiderio. And if we can get rid of this desire, then we attain a life where there is no mental suffering. E se noi riusciamo a liberarci di quel desiderio, allora riusciamo a ottenere una vita che è liberata dalla sofferenza mentale. So the Buddha says desire is the cause of suffering. Quindi il Buddha afferma il desiderio è la causa della sofferenza. Yet, very soon, maybe a day or two after his awakening, He wanted to go and teach the Dharma. Ma molto in fretta, dopo uno o due giorni dopo la sua liberazione, il suo risveglio, volle iniziare a insegnare il Dharma. So there must be two types of desire. Quindi questo ci fa intuire che ci debbano essere quantomeno due tipi di desiderio. So there is that desire which is coming from wisdom, and the desire which is coming from a wrong understanding. Quindi deve esserci un desiderio che sorge dalla saggezza e un altro tipo di desiderio che sorge da una comprensione erronea. Wrong view, comprensione erronea. So this wrong view manifests as trying to make this world a place where we can find true happiness. Questa comprensione erronea si manifesta in una modalità che tenta di trasformare questo mondo in un luogo felicità. Felicità, sì. Vera felicità. So we now find ourselves constantly trying to manipulate the world to make it a happy place for us. Quindi noi ci ritroviamo in una situazione in cui tentiamo di manipolare in continuazione il mondo, tentando di renderlo un luogo felice per noi. And trying to get rid of anything which upsets us. E cercando di eliminare, di liberarci di qualsiasi tipo di cosa che ci possa contrariare. So this wrong understanding of trying to find happiness in the sensual world leads us into conflict with the world. Quindi questa comprensione erronea nel tentare di trovare un piacere sensuale nel mondo ci porta in una situazione di continuo conflitto con il mondo. When we behave from this position, we begin to develop habits within ourselves, within mental habits within ourselves. Quando ci comportiamo in questo modo, iniziamo a sviluppare delle abitudini mentali al nostro interno. And those habits are unwholesome, unskillful, not virtuous. Queste abitudini sono, possiamo definirle unwholesome, che vuol dire non pure, inquinate. Gli altri due? Non salutari. Unskillful. Non abili. E non abili. And not virtuous. E non virtuose. Non virtuose. And these conditionings within us is what arises when we sit and meditate. Sono proprio questi condizionamenti che sorgono quando noi ci sediamo e ci mettiamo a meditare. These are the conditionings that take us away from moment to moment mindfulness. Sono quei condizionamenti che ci portano via da una consapevolezza un momento dopo l'altro. And you've heard me say now many times that all we have to do is watch and observe, we mustn't do anything. Oramai mi avete sentito ripetere più e più volte che si deve guardare, osservare senza fare nulla. And the reason is that these conditionings within us need our active empowerment to continue and to grow. Il motivo è da individuarsi nel fatto che questi condizionamenti, per poter continuare a esistere e a potenziarsi, hanno bisogno del nostro permesso, in un certo senso si può tradurre in italiano, del fatto che noi gli diamo potere. Potere. I came across very recently a medical term which is disuse atrophy. ultimamente ho incontrato questo termine medico che si può tradurre in italiano come una atrofia da non utilizzo, da non uso. So when, for instance, we might break a leg and it goes into plaster and we don't move the leg, when the plaster is taken off, the muscle will have withered because we've not used it. Ad esempio, quando noi ci rompiamo una gamba, l'arto viene poi messo nel gesso. Quando noi togliamo il gesso, possiamo accorgerci di come il tessuto muscolare si sia ridotto perché non è stato utilizzato, non è stato usato. It's exactly the same with these unwholesome mental states that we suffer from. Esattamente la stessa cosa riguardo a questi stati mentali non salutari di cui noi soffriamo. All we have to do is allow them to express themselves as feelings and they will slowly exhaust themselves. Tutto ciò che noi dobbiamo fare è permettere che essi si esprimano sotto forma di, poi lo chiariamo meglio, sentimenti. Facendo questo si esauriscono di per sé. May I ask you a question? Yeah. So it is doubt. Feelings and sensations. Feelings, I have difficulties in translating that. Yeah. Let's call them emotions. Okay. Emozioni. Possiamo appellarli emozioni. Yeah. Quindi una manifestazione emotiva. Yeah. The English word feeling is very close to the Pali word Vedana. Il termine inglese feeling è molto vicino al termine Pali Vedana. Because in English I can say I have a funny feeling in my leg, which refers to sensations. Perché in inglese posso dire ho un feeling strano nella mia gamba, il che si riferisce questo feeling a una sensazione, delle sensazioni. But I can also say that I'm feeling sad, meaning an emotion. Ma posso anche dire mi sento triste, riferendomi a uno stato emotivo. And in the Pali, which is the language of the Buddha, Vedana is described as pleasant, unpleasant physical feelings, pleasant, unpleasant mental feelings, and neutral feelings. Ora, nella lingua Pali, che era la lingua del Buddha, Vedana viene descritto come sensazioni gradevoli e sgradevoli. Emozioni gradevoli e sgradevoli e neutre. Quindi sotto questo termine abbiamo un campo più ampio che in italiano. So when I'm talking now about these habits, these mental habits, I'm talking about the feelings in the heart. Quindi quando io parlo di queste adesso abitudini mentali, in realtà mi riferisco a questo livello del cuore. So what the Buddha did was point out that there were five types of conditionings which when they come up we have to know how to deal with them so that they begin to exhaust themselves. Quindi il Buddha affermò che ci sono cinque tipi di condizionamenti che quando sorgono, dobbiamo essere in grado di relazionarci per poterli sciogliere, farli esaurire. The first one is all those things to do with desiring something pleasant. Il primo è tutto ciò che ha a che fare con il desiderare un qualcosa di gradevole. So, this evening, seeing the cake, there would have arisen a certain desire coming from the old conditioning of seeking happiness in cake. Quindi questa sera il semplice vedere il dolce può far sorgere in noi un antico condizionamento di ricercare felicità nel dolce. So by observing, you see, we still eat the cake. Ecco, osserviamo però questa cosa. Noi continuiamo a mangiarlo il dolce. But because we are watching the greed, not indulging it, the greed will eventually die away. Però, siccome noi non indulgiamo in questo stato di greed, cupidigia, poi troviamo il termine migliore, permettiamo che questa situazione poco alla volta si esaurisca, si sciolga. How do we know when we are watching a desire as opposed to indulging a desire? Come facciamo a distinguere, a sapere se stiamo osservando un desiderio oppure se stiamo indulgendo in quel desiderio? The mind is very slippery. La mente è molto scivolosa. So, to be able to watch desire, we have to feel it, experience it as a feeling. Per poter essere in grado di osservare il desiderio, è necessario che noi lo percepiamo come una sensazione, emozione. Object. Come un oggetto. Yeah, like an object. Like we're experiencing, like you might, the pain in your knee. Come possiamo sentire il dolore a livello del ginocchio? Mm. But there must be a very firm attitude of not wanting to agree to its demands. Ma deve esserci una risoluzione molto ferma per quanto riguarda il non lasciare mano libera alle richieste che mi fa questa sensazione, e non essere d'accordo con quello che richiede quella sensazione. So, when we approach food, for instance, we have to make a very clear determination within ourselves that I am eating this only to nourish the body. Quindi, ad esempio, per quanto riguarda il cibo, ho una posizione molto precisa che mi fa affermare che io mangio questo cibo per nutrire il corpo. Ah, so this is right attitude. Questa si può definire un atteggiamento corretto. Now we have to be very clear about that, because the old conditioning, you see, like the devil, is just here saying, go on, have a bit more. Allora, di essere molto chiari riguardo a questa faccenda, perché i condizionamenti antichi stanno qui sulla nostra spalla, un po' come il diavolo, e ci dicono, e su, mangiane ancora un pochino. Yeah, it won't do you any harm. Non ti farà male. See, so, we have, now, if you don't hear that, if you don't see that, it will work underneath, and you'll find that in a moment of unmindfulness, suddenly another piece of cake. Ora, se noi non realizziamo questa cosa opera comunque sotto sotto, e in un momento in cui non c'è presenza mentale, non c'è consapevolezza, ecco che ci ritroviamo ad afferrare un altro pezzo di dolce. So, you see, you have to know it's there. E quindi è necessario sapere che c'è questa realtà, questa presenza. You have to name the devil. È necessario proprio dare un nome al diavolo. In Buddhism, this devil is called Mara. Allora, nel buddismo il termine che si dà a questo diavolo è Mara. Now Mara is the tempter. Ora Mara è colui che induce in tentazione, il tentatore. He doesn't mean to do you any harm. Non è che ci vuole fare del male. He wants you to enter into his heaven. Vuole semplicemente portarci nel suo paradiso. The heaven of desire. Il paradiso del desiderio. There is a moment in the Buddha's after the Buddha became awakened. Dopo il risveglio del Buddha c'è un momento in cui Mara still came to him. Mara comunque continuò a tentarlo. He sent three daughters. E Mara inviò tre figlie. Lust, sensual desire and boredom. Lust, che vuol dire un desiderio lussuria. Desiderio sensuale e la noia. But the Buddha did not fall into these temptations. Ma il Buddha non ci cascò in queste tentazioni. And after 7 years, Mara gave up. E dopo 7 anni, Mara si stufò e smise di tentare. But his daughters ran after him and said, "No, no, just give us a bit more time." Ma le figlie di Mara gli andarono dietro dicendogli, "No, dacci ancora un po' di tempo." No? But Mara said, "No, it's no use. The Buddha sees me." Però Mara disse, affermò, "No, no, non è utile, perché il Buddha mi vede." When we see these conditionings within us, as long as we see them as objects, they cannot affect us. Fino a quando noi riusciamo a riconoscere questi condizionamenti al nostro interno come oggetti, allora non sono in grado di influenzarci. They can't hijack us. Non ci possono rapire. So dirottare, scusate. Dirottare. So these desires, they have to be recognized very clearly. Whatever it is, a desire for to get rich, to become famous, for sexual gratification, anything, you have to recognize this clearly. This is a desire. Ora è molto importante riconoscere chiaramente questi desideri, qualsiasi tipo di desiderio, che sia di diventare ricco, famoso, un appagamento sessuale. So remember there are in Buddhism there are these 4 worldly desires. Nel buddismo si identificano 4 desideri mondani, si possono definire. The rich, the powerful and the famous. Ricco, potente, famoso. And all sensual desire. E tutti i desideri sensoriali. So we want to be rich, we want to be famous, we want to be powerful, and we want all the pleasures we can get. Allora, noi vogliamo essere ricchi, famosi, potenti e godere di tutti i piaceri sensoriali possibili. Then we'll be happy. Poi, quando avremo raggiunto quella condizione, saremo felici. This is Mara. Questa è Mara. This is the sensual world. Questo è il mondo sensuale. So, in your meditation, these manifest as thinking, fantasia, things like that. Ora, durante il processo meditativo, queste realtà si manifestano sotto forma di processo di pensiero, di proiezioni fantastiche. Consider how, if you think, of one obsessive thought you have, which keeps coming back, keeps coming back, keeps coming back. Allora, proviamo a considerare, ad esempio, un pensiero ossessivo che possiamo avere, che continua a tornare a visitarci in continuazione. Yeah. Sì. So, every time the mind wanders, in Buddhist psychology, whether we like it or not, there has been a little empowerment. Ora, secondo la psicologia buddista, ogni qualvolta questo accada, che ci piaccia oppure no, è come se noi avessimo lasciato rafforzare un pochino quella condizione. There are 2 acts of will. Ci sono 2 atti di volontà. One by way of habit and one by way of a very self-conscious decision. Uno riguarda la modalità dell'abitudine e l'altra una modalità di piena consapevolezza e volontà. If for instance your mind is thinking about this and that, and then without you hardly knowing, you keep taking more cake. Ad esempio, la nostra mente continua a pensare a questo e a quello, e a un certo punto, senza che ce ne accorgiamo, noi continuiamo a prendere dell'altro dolce. More biscuits. Ancora altri biscotti. So, unwittingly, we are developing the desire to keep feeding ourselves. finding pleasure, finding some sort of comfort in eating. Quindi, in maniera sottile, noi ricerchiamo una sorta di appagamento, di comfort, attraverso il nutrirci con il cibo. Mm. And so, again, we are developing that same conditioning. E nuovamente noi sviluppiamo sempre quello stesso caro condizionamento. Mm. So, first of all, we have to recognize, acknowledge very clearly, this is a desire for cake. Allora, la prima cosa è necessario riconoscere in maniera estremamente chiara, questo è un desiderio di dolce. Mm. So then we have to make a very clear decision not to indulge that desire. Poi è necessario, in maniera molto ferma, fare il proposito di non indulgere in quel desiderio. Mm. So, when that desire comes, we sit with the desire until the feeling of that desire dies away. Quindi, quando sorge questo desiderio, noi ci sediamo sentendo le sensazioni di quel desiderio fino a quando questo scompare. Mm. This is the importance of renunciation in the Buddhist teachings. Questo è l'importanza della rinuncia nell'insegnamento buddista. Renunciation in Buddhism is not some form of self-mortification. Allora, la rinuncia nel buddismo non è una qualche forma di automortificazione. We are suffering enough, we don't need to make ourselves suffer more. Cioè, già soffriamo a sufficienza, non è che dobbiamo intensificare questa situazione. So the idea of renunciation is to see the attachment. L'idea della rinuncia è di vedere chiaramente l'attaccamento. So, for instance, if you want to find out how attached you are to television. Ad esempio, supponiamo di voler scoprire quanto attaccamento abbiamo rispetto alla televisione. Get yourself a nice cup of tea or coffee with a piece of cake. Allora, procuratevi una bella tazza di caffè o di tè con una bella fetta di torta. Sit comfortably in front of the TV when you know your program is on. Sedetevi di fronte alla televisione quando sapete che il vostro programma preferito sta per arrivare. Don't turn it on. E non accendete la televisione. And feel the suffering. E sentite la sofferenza. This is the extent of the attachment. Questo ci dà un indice chiaro di quanto attaccamento c'è rispetto a quella cosa. Then you keep doing that until all desire for that program has completely gone. Poi si continua a farlo fino a quando qualsiasi residuo di desiderio per vedere quel programma se n'è andato. Hmm. Then, in that clarity of mind, you can ask yourself, is this program skillful? Does it lead me to liberation? Or is it leading me the other way? In quel momento di chiarezza, poi, ci si può chiedere, allora, questo programma è un qualcosa che mi risulta utile, mi conduce verso la liberazione oppure no? If I decide, yes, this is a good program to watch, then I can watch it, but we have to be careful of that growing attachment. Se decidiamo che la risposta è sì, allora lo possiamo guardare, essendo però consapevoli di questa tendenza all'attaccamento. Mm. So, for instance, when it comes to food, we have to be careful not to drive ourselves to some, you know, just to what the body needs, such as bread and cheese. E per quanto riguarda il cibo, ad esempio, è molto importante fare attenzione a non spingersi troppo a ciò di cui il corpo ha bisogno, ad esempio, non so, pane e formaggio e basta. Mm. There is a place for pleasant tasting food which is good for the appetite, and there's a place for using food to rejoice, a feast. Ora c'è un una ragione per cui esiste un cibo gustoso per stimolare l'appetito, c'è un luogo che ha una ragione di esistere per utilizzare il cibo per celebrare, ad esempio, per fare una festa. The Buddha and his disciples were often invited to feasts. Allora, il Buddha e i suoi discepoli spesso venivano invitati a delle feste. He didn't say, just give me bread and cheese. E lui non è che dicesse, no, datemi solo pane e formaggio. But when there was a famine and there was hardly anything to eat, there was no complaining either. Ma quando invece c'era una carestia e non c'era quasi niente da mangiare, anche in quel caso non è che ci fossero grosse proteste. And so this is the quality of the awakened mind, that it is content with what there is. Questa è una qualità della mente risvegliata che è proprio in italiano si può dire è contenta di ciò che c'è. Che non è che si accontenta di, perché accontentarsi in italiano ha una colorazione un po' tetra, no? Cioè non c'è altro, che ci vuoi fare, devo accontentarmi. No, c'è proprio un'idea di contentezza per quello che c'è. That's it. Yeah. So our meditation all around desire is leading us towards that contentment with the way things are. Tutta la meditazione che riguarda il desiderio ci conduce nella direzione della contentezza, dell'essere contenti. And remember, the way to do that is to realize that all the fantasies that we have and all the things that we do in the world to feed desire are only metaphors for this wrong view. E ricordarsi che tutte le fantasie che noi abbiamo, tutte le modalità che nel mondo noi perseguiamo riguardanti i desideri sono semplicemente una sorta di metafora per questa visione erronea, questa comprensione erronea che noi abbiamo. Because desire is an attitude within the heart. It will desire anything. Perché il desiderio è un atteggiamento all'interno del cuore che desidererà qualsiasi cosa. If you can't get this cake will do. Se non riesco a mangiare questa torta qui, quella torta là, allora va bene. It doesn't matter. Non è importante. Yeah. So long as the desire is satisfied. L'importante è soddisfare il desiderio. Yeah. So our meditation is to be very clear about that and to see the psychology that surrounds this process of desire. Ora è molto importante che la meditazione sia estremamente chiara riguardo a questo punto, cioè che si veda la psicologia che circonda tutto questo lavoro sul desiderio. The next one on the list is all those things that bring up a sense of aversion within us. Nella lista l'elemento successivo sono tutte quelle cose che fanno sorgere avversione. So irritation, hatefulness, anger. L'irritazione, l'odiare qualcuno, la rabbia. Anche la paura. Paura, yes. What was that? Anything like fear, depression, all those things. Qualsiasi cosa che riguarda la paura, la depressione. All those things manifest as aversion, putting away. Tutte queste cose si manifestano con avversione, cioè allontanare. And these things can turn upon us so that just as we hate other people, we can also hate ourselves. Ora, tutte queste cose, questi atteggiamenti possono essere diretti non soltanto verso l'esterno, ma anche verso noi stessi, così come odiamo altre persone, possiamo odiare noi stessi. And remember, there are those hateful things that we like to indulge. E ricordiamoci che ci sono alcuni aspetti odiosi di cui noi siamo particolarmente appassionati, cioè ci piace starci immersi dentro. For instance, we like to get our own back on somebody. Our own, sorry? Our own back, we like to revenge. Okay. Ad esempio, ci dà un certo gusto avere una rivalsa su qualcuno. Prenderci una bella vendetta, ecco questo. There's also some relief in being angry with somebody and banging doors. Dà anche un certo sollievo arrabbiarsi con qualcuno e sbattere le porte. But these are indulging that particular conditioning. Questo però vuol dire indulgere in quel condizionamento specifico. So, just like here in meditation, you may just be on the point of liberation when somebody coughs. Ad esempio, in meditazione possiamo essere proprio sul in bilico, sul punto della liberazione quando qualcuno tossisce. So, you want to kill them. Cosa vogliamo fare? Beh, ammazzarli, no? So this feeling of anger, you see, is because somebody or something has disturbed what we want. Allora, questo stato di rabbia sorge perché qualcosa o qualcuno ha in qualche modo impedito, ostacolato un qualcosa che noi vogliamo. So you see, here in the meditation, when we are supposed to be practicing vipassana, in a very subtle way, we're trying to manipulate the situation. Allora, anche qui quando pratichiamo, quando dovremmo stare a praticare la vipassana, in qualche modo piuttosto sottile, noi stiamo tentando di manipolare un po' qualche cosa. We want the meditation hall to be absolutely quiet and cool. Vogliamo che la sala di meditazione sia assolutamente silenziosa e fresca. See? So, these little conditionings that we have running through our meditation make this place into a purgatory. Ora, questi piccoli condizionamenti che noi abbiamo riguardo ad esempio alla meditazione rendono questo luogo una sorta di purgatorio. In Vipassana we have discovered a very different level of awareness. Ora, nella Vipassana invece abbiamo scoperto un livello di consapevolezza molto diverso. We're supposed to be watching sensations, feelings, noises, sights. Quello che dovremmo fare è osservare sensazioni, emozioni, rumori, quello che vediamo. If we are truly doing that, then ideally nothing can disturb us. Se noi stiamo realmente facendo quello, allora idealmente niente ci può disturbare. Because whatever arises is to be observed and experienced. Perché qualsiasi cosa sorga, va osservata, bisogna farne esperienza. So when irritation comes up, any time during this retreat, you see, observe it. Here there is some holding, some resistance. Ogni qualvolta sorge dell'irritazione durante questo ritiro, si tratta di osservarlo. Vuol dire che ci sta aggrappando a qualcosa, c'è una resistenza. And when these other mental states come up, which we experience as painful, depression, fear, anxiety. Quando invece sorgono questi altri stati mentali che noi esperiamo come dolorosi, ansia, depressione, paura. Then also you have to be aware that they are reaching out for an object. Anche in questo caso è necessario realizzare che è un tentare di afferrare un qualche cosa, un oggetto. Some of your own history may be depressing or frightening. Parte della nostra storia personale può essere spaventosa, deprimente. Or suddenly you get depressed with Khande Chilieghi. Oh, ad esempio quando veniamo a Khande Chilieghi ci deprimiamo. This is a very depressing place for somebody who's depressed. Può essere un posto molto deprimente per uno che è depresso, no? So the mind will colour anything depending on its mood. Ora, la mente si aggrappa a qualsiasi cosa, fa ricorre a qualsiasi cosa, colora qualsiasi cosa rispetto a come si sente lei in quel momento. So it's the same with work. One week your work is pleasant, exciting, wonderful, and next week it's boring, depressing. Stessa cosa col lavoro. Una settimana al lavoro va bene, è interessante, La settimana successiva noioso, deprimente. The work is the same, the mood is changing. Il lavoro è lo stesso, il mood, lo stato emotivo cambia. So now that we have discovered this transcendent position, whatever the mood is, we continue to do the work. Ora, una volta che abbiamo scoperto questo punto che trascende, qualsiasi stato d'animo sorga, noi continuiamo a fare il lavoro. And we know that because we are not indulging these emotions, they will eventually die away. E sappiamo che siccome noi non stiamo indulgendo in queste emozioni, progressivamente die away, moriranno di morte naturale. Over a period of 25 to 50 years. Il periodo è dai 25 ai 50 anni. because these conditionings are deep. Perché questi condizionamenti sono profondi. Volevo chiedere una cosa, se non potrebbe essere utile invece di indulgere, osservare così in maniera così attenta le sensazioni negative, se non sia meglio, dopo aver osservato, spostare l'attenzione su qualcos'altro, per non, come si dice, per non ingrandirla. Did you get it? Yeah. Well, you have to translate. So. Okay. Oh, no, the question is whether it would be better not to empower these negative emotions. Once we have realized they are there, just to shift the presence on something else. Yeah, just to move your attention elsewhere. Yeah. So, this is what we are doing is, there is this animal within us which wants to express itself, and we are muzzling it, we're holding it down while we pay attention to something else. Ora, c'è questo animale al nostro interno che si vuole esprimere, si vuole attenzione, ed è come se noi lo tenessimo giù a bada mentre tentiamo di osservare qualcos'altro. The energy we need to push something out of our consciousness is feeding into this animal. Ora, l'energia che è necessaria per tenere questo animale fuori dalla nostra coscienza lo nutre. This is this has been well understood in Western psychology through the process of suppression and repression. Questo è stato compreso bene nella psicologia occidentale attraverso i processi di repressione e soppressione. Suppressione is not looking, don't want to see. La sopprimere nel senso di non guardare, non voler vedere. Repression is you don't even see it. Reprimere vuol dire non lo vedi proprio. But it's underneath, it's working underneath the psychology. Ma comunque lavora sotto a livello psicologico. And sometimes it comes out in peculiar behavior. E a volte emerge in comportamenti peculiari. So the understanding is that in order to purify the heart, it must be allowed to manifest into our consciousness. Ora, c'è questa comprensione profonda che per poter purificare il cuore è necessario che si possa manifestare. You can't get to heaven without going through hell. Allora, non è possibile arrivare in paradiso senza passare per l'inferno. Once when I came back from a meditation session, a friend asked me, "Is there an easier way?" Una volta quando sono tornato da una session di meditazione, un mio amico mi ha chiesto, "Ma non c'è una maniera un po' più facile?" I said, "I don't know, but if you find it, come and tell me." E io gli ho risposto, "Non lo so, ma se la trovi, per favore, vieni a dirmelo." So those are the first two of the hindrances. Queste che abbiamo elencato sono i primi due degli impedimenti, degli ostacoli. And I want to do the other two are this drowsiness and lethargy. Gli altri due sono questi due stati di drowsiness. Dullness. In the head. In torpore. E però poi c'è l'altro che è sonnolenza. Torpore e sonnolenza sono un po' sinonimi in italiano, sono due cose leggermente diverse. Restlessness. Poi c'è l'inquietudine. And finally doubt. E in ultimo il dubbio. Il dubbio. So tonight I just want to do a little bit about this sloth and torpor. Questa sera voglio vedere un pochino soltanto di questa, questo torpore, questa sonnolenza. Because that's what we're all suffering from to one degree or another. Perché è ciò di cui stiamo soffrendo tutti quanti a un certo grado o in un altro. With all these things that we like, there is virtually always seeking happiness in something, but also running away from something else. Ora, in tutti questi aspetti che ci piacciono, c'è un tentativo di trovare felicità perseguendo un qualcosa, ma allo stesso tempo anche scappando da qualcos'altro. For instance, if we feel a little anxious, it will manifest in the stomach as an uncomfortable feeling. Ad esempio, se siamo un po' ansiosi, è possibile che si manifesti a livello dello stomaco come una sensazione non piacevole. Rather than feel those feelings, get in contact with the anxiety, it's much better to eat cake. Ora, invece di stare a contatto con quella sensazione di ansia nel corpo, molto meglio mangiare il dolce, no? So the cake becomes a point of comfort. Ora, il dolce diventa un qualcosa, un punto di conforto, chiamiamolo così. So eating becomes a place of comfort. Ora, il mangiare diventa un qualcosa che ci aiuta, il comfort. We are taking refuge in food. Ci stiamo rifugiando nel cibo. So, it's the same with sleep. Stessa cosa con il sonno. When we feel a little bored, a little upset, then we think, "Oh, I'll have a little sleep." Quando ci sentiamo un po' annoiati, un po' così, non tanto a posto, arrabbiati, allora ci viene, "Ma vado a fare un sonnellino." And sleeping is good, it's nice. Dormire è bello, Because fa bene. Yeah, because when we're asleep, in oblivion, there's no suffering. Perché quando noi siamo nell'oblio del sonno, sofferenza non ce n'è. This is one place we can really say there is no suffering. Ecco, questo è proprio un posto in cui possiamo dire sofferenza lì non ce n'è. So therefore we seek refuge in sleep. E quindi noi cerchiamo rifugio nel sonno. And again, unwittingly, unknowingly, we are developing a desire for oblivion, for sleep. E nuovamente, senza rendercene conto, noi stiamo sviluppando un desiderio per l'oblivio, no? Attraverso il sonno. And so, again, there is this conditioning in us. Wanting to go to sleep. E nuovamente scopriamo questo condizionamento al nostro interno, il desiderio di andare a dormire. And that's what we are suffering from in the meditation. È questo che ci affligge durante la meditazione. These are conditionings from the past, now arising in the present. Sono condizionamenti che provengono dal passato, che sorgono nel presente. So, just as with desire, we don't feed it, so it's the same with these feelings of dullness and lethargy. We don't fall asleep. E quindi il nostro atteggiamento è lo stesso per quello che riguarda il desiderio. Così come noi non nutriamo il desiderio, allo stesso modo qui non andiamo a dormire. So long as we know we had a good night's sleep and we can really presume that the feelings of dullness and lethargy are really just old conditionings, the more we must refuse to be annihilated. Ora, appurato che noi abbiamo dormito bene la notte e che sappiamo che quelle sensazioni di sonnolenza, di annebbiamento e di torpore non provengono dal fatto di una reale stanchezza, allora a maggior ragione c'è una risoluzione a non dare corda a questi stati. Refuse to be annihilated. C'è un rifiuto di venire proprio annichiliti. So, once you do that, then you have to, as it were, stay awake within those feelings. E quindi è necessario rimanere svegli all'interno di quelle sensazioni. And you can discover that you can be as awake within the feelings of dullness and lethargy as you are in ordinary daily life. E si può scoprire che si può essere tanto presenti dentro quelle sensazioni di sonnolenza, di letargia, tanto quanto lo possiamo essere nelle attività normali quotidiane. Do you believe me? Mi credete? Yes. Good. So now, if some questions arise from these talks, then you can put them on a piece of paper. Where can we leave a piece of paper? Qui. So we'll leave a piece of paper here with a pen, and just write your questions, and I'll answer them. Ora, se sorgono in voi delle domande riguardo agli argomenti trattati nel discorso di questa sera, verrà lasciato qui un foglio di carta con una matita, scrivete la domanda che vi è sorta. Sometimes there are questions which come up in the mind, which are, shall we say, general questions, questions on Dharma. You can also write those down. A volte possono sorgere anche delle domande più a livello generale, domande riguardo il Dhamma. Potete scrivere anche quelle. And all will be revealed at the end of the course. Tutto verrà, come dire, rivelato alla fine del corso. So, that's enough for tonight. So, if we now just do a little walking meditation, and if thoughts come up, just let them come up, but don't get too much intellectually involved with the thoughts that may come up. Ora adesso facciamo un po' di meditazione camminata. Se sorgono dei pensieri, lasciamo che sorgano, però vediamo di non farci, come dire, di non diventare troppo imbrigliati intellettualmente in queste cose che possono sorgere.